Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Un ragazzo di 39 anni, però con belle esperienze di lavoro alle spalle e soprattutto con una bella mamma che l'ha portato per braccio ancora quando era bambino. Ribadiscono la mia serietà, visto che quando scoppia lo scandalo Consip chiamo mio padre per dirgli: babbo, questo non è un gioco, devi dire la verità, solo la verità. Stiamo parlando di pubblicazioni che la legge non permette di pubblicare, quindi siccome io sono per la legalità sarei curioso di capire perché qualcuno sta violando la legge. E quel qualcuno non sono io, non siamo noi. Fedina penale pulita. Mi piace sta cosa, perché sulla fedina penale si potrebbe aprire un dibattito interessante. Trovo tanta gente, tra cui qualche partito fondato da pregiudicato, che viene a fare la lezione a noi sulla moralità. Condividetelo questo passaggio, perché credo che sia interessante. Ho creduto troppo in me. È tornato, era il momento grave e quindi bisognava dire qualcosa agli italiani, e la formula è sempre quella: Matteo risponde. Mi rispondi, dove sei, con chi vai, chi si prende la mia voglia di te, rispondi. Eh sì, perché c'è questa telefonata fatta al papà in cui il figlio lo bistratta dicendo: di la verità, parla chiaro, domani quando ti interrogano hai incontrato Romeo o no, stai rovinando una carriera. Telefonata effettivamente finita sul Fatto Quotidiano, o meglio finita in un libro, ragazzi, il momento delle rivelazioni fatte dai libri, e poi finita sul giornale Il Fatto. Telefonata fatta ad arte? Perché questo è anche quello che molti giornali dicono, sul giornale, sulla verità, ma anche a Rutelli, insomma molte persone dicono: ma secondo voi Matteo Renzi poteva pensare di non essere intercettato nel momento in cui chiama il padre indagato? Non in quanto intercettato lui, ma quanto intercettato il padre. E quindi poteva essere addirittura una telefonata fatta per, come dire, precostituirsi una situazione in cui dice: vedete, io lo tratto male perché sono arrabbiato. Ragazzi, ma qui siamo veramente in Italia, il paese dei complotti, dei polpette avvelenate. Ah. Ma c'è uno che mi scrive: vedi che sul papà di Renzi hai perso la scommessa. Ma che scommessa ho fatto sul papà di Renzi? Io sono rincoglionito. Lorenzo Nespoli, che scommessa ho fatto? Anche tu fai la faccia perplessa. Peter Bescabè, che scommessa ho fatto? Cioè, scommetto senza neanche ricordarmi più. Che miseria. Vabbè. Allora, a Ciorlano ci sono 14 gradi ed è sereno, Enzo. Mentre a Cittadella 16 gradi, ci fa sapere un ascoltatore. A Bratto, Bergamo, 11 gradi, cielo sereno, ma che bello, si stanno alzando le temperature. 20 gradi a Monte Carlo, ci fa sapere la nostra Marie-Françoise, sempre all'ascolto da Monte Carlo. A Göteborg, signori, in Svezia, ci stanno ascoltando, pioggia 6 gradi. Mi spiace, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, non lo so. Udine, 17 gradi, Mandì. 11 gradi a Guidonia, ce lo fa sapere Luciano, grazie Luciano, un abbraccio. Mentre in Valmontone, 15 gradi, sereno. Ma che bello, eh? E poi 17 gradi a Santeramo. A Lodi, 18 gradi. A Opera, 20 gradi. Il vostro nuovo direttore totale sarà il dottor Inge, gran mascalzon di Gran Croce, Visconte Cobra! Luca Dini, il nostro super mega dir. Caro, caro Luca, ti abbiamo rispolverato. Non è più direttore di Vanity Fair, direttore editoriale, quindi il nostro gran super direttore. Va bene così? Bellissimo, va bene così. Luca Dini, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Insieme a te c'è Paola Saluzzi. Buongiorno. 17 gradi a Roma, 17 sole. Gradi a Roma, sole. Signori, ma c'è un lavoro che secondo me andrebbe pagato come lavoro molto usurante. Vorrei spendere una parola di affetto per questo signore che voi forse conoscete di nome, forse l'avrete visto in video. Dovrebbe essere pagato milioni di dollari l'anno perché lavora in America. Si chiama Sean Spicer ed è il portavoce della Casa Bianca, insomma, il portavoce di Trump. Io vorrei veramente, io vorrei, sì, no, facciamo un fondo, apriamo un fondo. Io vorrei veramente mostrare la massima empatia. È una vita difficilissima. Signori, quando il Washington Post ha detto forse sì, Trump ha dato dei segreti ai russi, si sono riuniti tutti, generali, strategia, come sminuire questa cosa, no, come depistare, come dire che no, non è vero, un presidente americano non può mai fare niente, era tutto pronto per la conferenza stampa quando Trump ha twittato yes, what's the problem, ho dato i segreti ai russi, è il mio diritto, I am the boss, signori, tu per quanti soldi faresti, caro Luca Dini, il portavoce di Donald Trump? Forse è uno di quei casi, ti direi, per nessuna somma, perché insomma c'è un limite, perché io credo veramente che questo tipo qua, a parte che durerà poco, perché lo farà fuori presto. In che senso? Siccome non riesce, alla Kim Jong-un perché... o no? No. Lo licenzierà perché chiaramente non riesce a fare bene il suo lavoro, come nessuno lo farebbe, perché è talmente imprevedibile, impossibile. Sì. Però devo dire che ha già detto delle cose, quando tu sei costretto a dire delle cose che sono palesemente false per coprire qualcun altro. No, è straordinario. È la tua reputazione, insomma. Però non abbiamo aperto il Parlamento. Aspetta, apriamo il Parlamento, che così insomma il Parlamento, ragazzi, è ufficialmente aperto. Caffè, ci siamo. E gli state sopra così, io vi voglio bene. Cara Paola, forza, insomma. Forza, ma tu te lo vedi poi Trump con il ministro degli esteri Lavrov? No, tutti lì. In genere questi incontri, tutti si parla in diplomatese, eccetera. Parte Trump e dice: "You know what they do? They fucking ISIS in Syria." E via, è partito e gli devo ha detto. Dire che lo imiti benissimo, Lino. No. Devo dire che è uguale. È uguale. C'è anche la zazzera, se vuoi. Stiamo parlando dell'uomo che ha in mano la potenza numero uno al mondo, 1-1 bis con Putin, non so, non saprei, ma di un uomo che licenzia il vertice dell'FBI, il vertice, l'uomo che, come dire, tiene le fila dell'FBI e poi gli manda messaggi via Twitter. What's the problem? Yeah. E poi questo povero Cristo che si prepara la sua conferenza, che già aveva detto: voi giornalisti, via, siete brutti, sporchi e cattivi. Mm-hmm. E va bene, in più della situazione, che dice era bianco, e quello risponde: no, era nero. È nel mio diritto, è nel mio diritto. Allora bisognerebbe dire a questa persona che The Apprentice è finito. Sono passati i titoli di coda. E ora è partita la sigla della Casa Bianca. Ma è straordinario. È la Casa Bianca. Secondo White me House. Ci regalerà veramente, non so quanti mesi durerà Trump, ma un periodo fantastico che rimarrà nella storia. È meraviglioso l'ottimismo di Alino. È meraviglioso. Sì, insomma, secondo me c'è profumo di impeachment, come di torta. di mele a casa di nonna papera. Ma no, insomma... ma come fai a farlo? Anch'io ho detto ieri, per un momento ci sono cascato a dire, beh, ma il momento è serio, un presidente americano che svela una cosa top secret ai russi. Tra l'altro, tra parentesi, giusto perché io l'ho twittato e raccontato ai giornali, pare che quello che abbia rivelato ai russi, è che l'ISIS, questa è una cosa che viene da Israele, sarebbe pronta a mettere bombe sugli aerei. Buon mercoledì a tutti, ovviamente. Ecco, questo no, è quello. Ne prendo uno di aereo, quindi sì, sì. Vabbè, dai, però insomma, questo è quello che avrebbe rivelato Trump. Però cioè, anch'io, Luca, all'inizio ci ho pensato seriamente, ho detto, ma Trump, no, questa è una roba da impeachment. Ma poi ti depotenzia lui. Yes, what's the problem? I'm the boss, you know, I'm the certo, boss. Lui dice una cosa, se la desecreto io, non è più un segreto. Esatto. Sì, gli israeliani non sono d'accordo. Gli israeliani non sono d'accordo. E vabbè, no, ma ragazzi... Il ragazzo è così, teniamolo così. E non ditegli più le cose. Anche voi israeliani, non ditegli, non si tiene niente, non ditegli più le cose, non ditegli più le cose. Sapete una cosa? Ditela a noi qua a 24 mattino, vi chiamiamo, che non le diciamo noi a non le diciamo a nessuno, ce le teniamo per noi, ce le teniamo per me, Luca Dini, Paola Saluzzi, al limite così, in una chiacchierata informale davanti a uno spritz, la condividiamo con qualcuno, ma poi basta, siamo sereni, tranquilli. Va bene, dai, volevo fare questo... Comunque per Luca Dini c'è anche Mega Direttore Galattico. Mega Direttore Galattico. Suggerisco anche come ulteriore sigla. Secondo me Paola... Mega Direttore Galattico. Sì, secondo me Paola ci insulterà, mette giù il telefono, poi ci insulterà se questa cosa non finisce presto, perché ci manderà due Doberman. Va bene, allora, signori... Il caso Renzi, dai, è inutile, dobbiamo parlare anche di questo caso Renzi. Telefonata finita sui giornali, il papà di Renzi, oggi tra l'altro straordinario, il Corriere della Sera intervista nonna Renzi, cioè la mamma di Tiziano, la nonna di Re, di Matteo. E dice, Tiziano e Matteo, due caratteracci così, però mio figlio non ha mai detto le bugie neanche da piccolino. La mamma, la nonna che dice, mio figlio non diceva le bugie neanche da piccolino. Le bugie. Tiziano Renzi che l'ha presa benissimo ieri quando è andato un cronista di Repubblica. Non volevo disturbarla. Ma si levi dalle palle, per favore. Avete rotto i coglioni. Ma avete rotto le palle, chiaro? Io la lasciavo anche andare dove Porco voleva. Boy, mi diceva, rotto i coglioni. Mi diceva, non volevo parlare. Ma vai a fare il culo, lei e tutti i fai con me. Lei mi diceva, guardi, io non voglio parlare, ma vada a fare in culo. Che voglio dire? No, allora, ecco, cosa dobbiamo fare? La difesa di categoria, Paola? Sarà un po' esasperato, magari, insomma. Mettiamola così, poi ovviamente... Che io ricordo sempre il collega mandato lì da gente come Luca Dini, che è direttoroni. Puoi andare a citofonare a Tiziano Renzi. Sì, come no? Mi accoglierà, mi offrirà un caffè, eccetera. Quindi anche il collega è vittima. Sono tutti vittime di un sistema. Io faccio un appello al DIR, sì? Perché stamattina Lino è particolarmente scatenato. Non so se avete notato. L'imitazione della nonna, sì, no, vabbè, adesso ma voglio dire, ormai l'imitatore ufficiale di Trump in Italia e nell'Europa occidentale, perché questo è ormai Alino Milan. Così, no, non voglio uscire dall'argomento, però ti vedo particolarmente. No, io con le imitazioni, per carità, non è mio. Però insomma, ecco, dai, vediamo. Di Donald posso imitare la capiglia tua. Il vero imitatore è il nostro amico Barti Colucci, ricordatelo. Altre cose volete notare la mia carissima amica Paola Taruzzi e invitarla al più presto a passare il camerino per trattare e definire i temi della puntata, Barti Colucci innanzitutto, questo ecco, non ci sono dubbi, ecco. Però anche Alino, però allora dai, vogliamo dire due cose su questa telefonata. Intanto, Luca, è finita sui giornali, primo in un libro e poi sui giornali. Noi oggi avremo ospite Marco Lillo. Effettivamente non dovrebbe starci sui giornali questa telefonata. No, non ci dovrebbe stare, evidente. Ma comunque, sai, intanto non dovrebbe stare neanche sul libro, perché ormai sai, se io scrivo in un libro su questo, su quest'altro, non devo citare pezzi d'appoggio, cioè si può scrivere qualsiasi cosa e va bene tutto, vabbè. Comunque, se è stata giudicata irrilevante, cioè il problema è che se avesse detto non dire la verità, diremmo tutti ah che scandalo, se dice di la verità, ah ma l'ha fatta apposta perché è intercettato. Esatto. Francamente dico, ma cioè, forse abbiamo altro di cui occuparci, a me non lo so. No, penso che nei giornali, cioè il lavoro del giornalista o del giornalista investigativo è di scoprire delle cose con le prove e anche cose rilevanti. Se una cosa non è rilevante, non ci dovrebbe andare sui giornali. Oppure, io non la trovo rilevante. Oppure parlare con Trump, che è semplice, perché lui dice tutto. Esatto. Un tweet e via. No, scherzo, no. Paola, tu che ne pensi di questa telefonata e se ne parla? Mi metto perfettamente in scia con il nostro direttore Lucadini. Cioè, non dire la verità, una bomba. Di la verità, ma allora era fatta a teatro, è un po'. Beh, ma un po' in Italia è così, non se ne esce più. Sì, però non è giusto. Io quando l'ho vista ieri questa intercettazione subito sul fatto, ho detto: oh, mamma mia, ci aspettano però altri 20 anni di berlusconismo. Ti seguiremo con Marco Lillo oggi, perché poi. Ovviamente è importante sentire anche la versione. Sì, ma io l'ho pensata così, proprio... cioè ci attenderanno 20 anni di berlusconismo. Cioè, beh, ma questo, capito? Con rispetto parlando, era partito già qualche anno fa, insomma, no? Ma no, ma se qualcuno dice che Renzi può essere in qualche modo il nuovo Berlusconi, dai, comunque, cioè, dai. Se questo è l'inizio, io emigro in Burkina Faso, insomma, non lo so. Tanto poi parliamo di un'inchiesta che, insomma, dire che ha dei lati oscuri è poco, Sì, cioè, ci sono anche scontri tra procure, telefonate forse, ma non, insomma, manomesse, cioè, insomma. C'è un po' da vedere. Quindi, comunque, intanto, prima di pubblicare qualcosa di questa inchiesta, io ci penserei 6 volte. Intanto andiamo a sentire Trump. No, andiamo a sentire il traffico, dai, che poi arriviamo. Manda traffico. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Valle Pistoiese, Alino, 16 gradi. Ieri sono rimasto sconvolto. I media hanno comunicato due notizie sensazionali, sono due veri scoop. La prima è che sui migranti ci mangiano tutto. Secondo, che in Calabria c'è la 'ndrangheta. Caro Milan, ho ordinato delle magliette gialle con disegnato sopra delle facce da culo da regalare a Orfini e Giacchetti. Se te ne serve qualcuna, fammelo sapere che te le mando. Hey baby, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart. I due principali sono come un fiume in piena. Perché? Perché sono fuori corso all'università. Non hanno nemmeno preso una laurea. Nessun lavoro. Nessuna laurea, al massimo hanno fatto le hostess al San Paolo di Napoli e all'Olimpico di Roma per vedersi le partite gratis. Caro Berlusconi, anche in questo è un po' age, cioè Vincenzo De Luca ti ha superato nettamente nel modo di sferzare quelli del Movimento 5 Stelle. Comunque, ecco, per quel che riguarda le magliette, a me non interessano, però so che a Paola Saluzzi e Lucadini le due magliette gialle al nostro ascoltatore. Io la voglio subito. No, non voglio mettervi in difficoltà, ma i nostri ascoltatori sono così, sono un po' malandrini. Signori, okay. Comunque... Intanto magicamente Roma era più pulita. Sì, era sì. Più pulita, va bene. Sì. Qui c'è da discutere un attimo di soldi, di divorzi, di... No, non lo so, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, 2 milioni di... Però un po' di accanimento, Luca, c'è nei confronti di Silvio Berlusconi, che è l'unico che non ha avuto lo sconto Dovrà pagare sempre 2 milioni di euro a Veronica Lario. Mannaggia, non sono pochi. 2 milioni al mese, no, non sono pochi. Non sono pochi. Un po' di accanimento c'è sicuramente. Sì. Se l'è andata anche a cercare. Se l'è andata un po' a cercare. Sì. No, senza voler, dico così. Però, questi 2 milioni. No, ma in realtà la vera notizia che mi ha colpito è questa. Il Corriere della Sera dedica una pagina. Vorrei chiedere un parere a voi su questo. Ad alcuni che guidano dei paesi importanti, che ne so, il primo ministro del Lussemburgo, Theresa May, Nicola Sturgeon che guida in Scozia, Angela Merkel, il premier olandese Mark Rutte, Emmanuel Macron, sapete cosa contraddistingue tutti questi? Non hanno figli. E allora il Corriere della Sera fa tutta una riflessione sul fatto che i childless leaders, cioè i leader che non hanno figli, sono al potere in base. Sarà un caso? Si chiede. Non è un complotto. Quindi anche Paola, sentite, tu potresti, scusate, io che non ho figli, prendere in mano, sentire una complottante, ebbene sì, ora ve lo devo dire, no, è un complotto. Ma no, è una riflessione, cioè come dire, forse che avere figli insomma preclude un po' alla carriera anche da leader politici, non lo so, ma che cavolo ti categoricamente. Che cavolo ti devo dire? Penso che non avere figli sia una scelta, molto spesso una situazione che capita. E che forse sicuramente questo ti dia più spazio per fare cose che avendo figli potresti fare con diciamo così, dovendo sempre tenere un occhio attento che cosa facciano i tuoi piccoli che poi diventano grandi. Credo che avere figli sia la cosa più bella del mondo. E se i figli non ci sono, sì, benissimo, ci può essere anche Obama, per dire che ha dei figli e diventa presidente americano, insomma. O Trump, anche Donald. What's the problem? I have children. What's the problem? I have children. You know what? The fucking is. You know what? Ok, va bene. Abbiamo. È meraviglioso. L'ho anche messo su Twitter, imitatore ufficiale. No. Non me ne voglia Barti Colucci. No, non credo che non avere figli sia. Certo, è una linea unica che unisce tutte queste persone. Guarda, mi hai convinto, va nella carta costa di oggi. Mi hai convinto. No, io qui la prima di Vanity Fair, Luca, cosa devo dire adesso? Lo dici tu, la prima di Vanity Fair, lo sai anche se non lo so. Alessandro Mastronardi. Che scusa. Signorante non è colpa. Ma io su queste cose. Vabbè, mi ha subito ripreso. Ti piace almeno? Direi che non la conoscevo fino a oggi, ma insomma. Ma intendi conoscerla? intenderei conoscerla. Va bene, dai, mi devo fermare. Assolutamente, ricordo Paola Saluzzi alle 10 su Sky e Luca Dini, il nostro super mega dir. Il numero di Vanity Fair è in edicola e alla prossima. Poi Aline Mila, Ellie e Gestigi, una lanciano di Yamia. 24 mattino. Eccoci qui al servizio alle 7:20 minuti, è il momento della rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo subito a capire che cosa ci offrono i quotidiani in edicola. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a mercoledì 17 maggio con le aperture. Il Sole 24 Ore, PIL, l'Italia cresce dello 0,2%, l'Unione Europea corre a doppia velocità. Questo è il titolo di prima pagina. C'è il caso Renzi, la telefonata. Il Corriere della Sera proprio titola così: Renzi, il caso della telefonata. Mentre il Messaggero, caso Renzi, due procure nel mirino. Il Fatto Quotidiano, che ieri ha fatto emergere questa storia, e avremo ospite Marco Lillo del Fatto più tardi. Renzi mente pure sulla telefonata al babbo, tace su Luca e ci diffama Luca e Luca Lotti. Il Giornale, Renzi intercettato, un depistaggio nell'indagine farsa. La telefonata finisce sul Fatto, è una fuga di notizie che fa tutti contenti. Maledetti babbi, titola Libero. Mentre La Verità, intercettazione distrutta dalla procura,